Italia in controluce. Italia in controluce, buongiorno da Vincenzo Miglietta in diretta dalla postazione di Radio 24 alla Camera dei Deputati. Telecom Italia da ieri parla di fatto spagnolo con l'Iberica Telefonica che, già azionista dell'operatore italiano da 6 anni, sale al 66% di Telco, la holding che controlla il 22,4% del gruppo telefonico italiano. Dibattito aperto sull'opportunità o meno del passaggio di uno dei maggiori operatori telefonici del nostro paese in mani straniere, con il presidente di Telecom Bernabè che questa mattina qui in Parlamento ha detto: abbiamo saputo del riassetto dai comunicati stampa. Vi invitiamo allora dunque commento su tutto questo al nostro numero per gli SMS 349-238-6666. Partiamo subito con un approfondimento della nostra Valentina Furlanetto. A un giorno e mezzo dall'annuncio dell'accordo fra Telefonica e Telco che consegna in mani spagnole la maggioranza relativa di Telecom Italia, il governo si dice pronto a difendere la rete. Vigileremo, ha detto ieri il premier Letta, il quale ha sottolineato però il fatto che la società è privata. L'accordo prevede un disimpegno dei soci generali Mediobanca Intesa San Paolo e un riassetto della holding Telco, la scatola dentro la quale sta Telecom Italia. Telefonica salirà quindi a tappe dal 46 al 66 fino al 70% di Telco, con un'opzione per arrivare al 100%. La grande scatola Telco, da parte sua, possiede il 22% di Telecom, che per il resto è in mano al mercato, con l'eccezione del 4,9% in possesso della famiglia Fossati. Oggi si registrano diverse reazioni. Staremo a vedere quale sarà il piano che presenterà Telefonica, ha detto il direttore generale di Confindustria Marcella Panucci. La privatizzazione è stata una svendita, non poteva che finire così, ha commentato il leader della CISL Raffaele Bonanni. Dalla politica sono arrivate molte voci preoccupate. Lapidario il presidente di Telecom Italia Franco Bernabè, che stamattina ha parlato in Commissione Industria al Senato. Se il sistema Italia, ha detto, fosse stato davvero così preoccupato del futuro di Telecom Italia come pare negli ultimi 2 giorni, forse sarebbe stato possibile prima un intervento strutturale. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Antonio da Roma ci scrive: di tutta evidenza che stiamo diventando il primo paese del terzo mondo. Marco, un altro SMS: faranno molto anche i greci, faranno shopping da noi. Valentina Furlanetto chiudeva il suo approfondimento riferendoci le parole del presidente di Telecom Franco Bernabè. Allora ascoltiamo proprio un passaggio abbastanza controverso, quello in cui Bernabè dice: abbiamo saputo del controllo di Telefonica dai comunicati stampa. Sentiamo. Desidero ringraziarvi per l'opportunità di illustrare le prospettive del gruppo Telecom Italia a valle della recente modifica dell'accordo parasociale tra gli azionisti di Telco, di cui noi abbiamo avuto conoscenza ieri dalla lettura dei comunicati stampa. Questo accordo societario, in base al quale i soci hanno diluito la loro partecipazione e concesso una call option a Telefonica sull'intero pacchetto azionario, delinea un percorso che porterà Telefonica ad avere il controllo di Telco e quindi a diventare l'azionista di riferimento di Telecom Italia. Non so voi, ma lascia quantomeno perplessi il fatto che i vertici di Telecom non siano stati avvertiti di quanto accaduto. Altro capitolo, il cosiddetto rischio di downgrade. È necessario guardare in avanti alla consistenza della nuova Telecom Italia e Telecom, dice Bernabè, potrebbe procedere ad un aumento di capitale aperto a soci attuali o nuovi. Ascoltiamo quest'altro passaggio. Un'ulteriore alternativa è rappresentata da un aumento di capitale di Telecom Italia, aperto a soci attuali o nuovi. Quest'ultima opzione consentirebbe inoltre di ridare solidità finanziaria al gruppo, valorizzando al meglio la potenzialità di nuovi investimenti e contribuendo al rilancio dell'economia nazionale in termini di occupazione, innovazione e presenza internazionale. Queste le parole di Bernabè che è intervenuto qui in Parlamento, per questo anche vi trasmettiamo dalla nostra postazione proprio alla Camera dei Deputati. Tanti sono i commenti, come immaginabile, dopo un fatto politico-economico così importante. Allora, veniamo a Luigi Zingales, consigliere tra l'altro anche lui di Telecom. Telefonica è in conflitto di interesse, un concorrente diretto in Argentina e Brasile che rischia di forzare Telecom Italia alla dismissione di asset preziosi per il rilancio della società, lo dice Lo abbiamo detto, Luigi Zingales, rappresentante degli amministratori indipendenti, lo ha ascoltato Valentina Furlanetto. Sentiamo. Intanto non sono io che parlo, ma sono tutti i consiglieri indipendenti. È uscito un comunicato di tutti i consiglieri indipendenti che si dicono preoccupati per questa cosa che succede al di sopra delle loro teste, quindi non cose su cui noi possiamo decidere in consiglio di amministrazione, e che però hanno un pesante effetto su quello sul nostro lavoro, quindi di consiglieri di Telecom. Il problema è quello che Telefonica è in conflitto di interessi per la questione del Sud America. Certamente, e se Telefonica, questa è la mia opinione, non dei consiglieri indipendenti, ma se Telefonica comprasse il 100%, non ci sarebbero problemi, può fare quello che vuole. Oggi Telefonica ha una quota molto piccola del capitale sociale, però questa quota piccola avrà delle ripercussioni sulla nostra capacità di tenere e sviluppare il mercato brasiliano ed argentino. Se capisco bene, la preoccupazione è che si rischi di forzare Telecom Italia alla dismissione di asset che sono in concorrenza con Telefonica, no? Sì, questo è esattamente quello che diciamo. In Italia non esiste un ordinamento che difenda gli azionisti da una situazione del genere. Per questo abbiamo pensato fosse una cosa corretta sollevare questo problema. Il Premier Letta avrà sentito, ha detto è il mercato, è una società privata, insomma sembra che non voglia la politica occuparsene in qualche maniera. Guardi, io sono il primo che difende il mercato. Il mercato però ha delle regole, e le regole sono che se uno compra tutto fa quello che vuole, se però non compra tutto deve proteggere gli interessi di chi la maggioranza degli azionisti, perché voglio dire Telefonica possiede una quota molto piccola del capitale sociale. Oggi ne possiede il 12%, se comprerà tutta Telco e quando la comprerà alle calende greche ne possederà 22%, rimane comunque un 78% di azionisti che devono essere tutelati. Mm. E quando diciamo di tutelare il mercato e proteggere il mercato significa anche occuparsi di questo. E così dunque Luigi Zingales, rappresentante degli amministratori indipendenti di Telecom. Il mercato ha le sue regole, il mercato ha delle regole, ricorda Zingales al microfono di Valentina Furlanetto. E tanti vostri sms, avete sottolineato la mia stessa perplessità, ovvero le parole di Bernabé qui in Parlamento. Abbiamo saputo del passaggio dai comunicati stampa, la solita italianata, scrive Alessandro. Ma cosa ci sta a fare Bernabé se le cose le sa dai giornali? Scrive Claudio da Trento, accidenti, se ho capito bene Bernabé non ne sapeva niente, un dirigente che dirige davvero, scrive Cristina. Lo sottolineava anche la collega Furlanetto nella sua scheda iniziale delle tante reazioni del mondo politico. Il Presidente del Consiglio Letta riferirà martedì qui alla Camera, vigileremo sulla situazione, ha detto il Premier, ascoltiamo un suo passaggio. Siamo in un mercato europeo, Telecom è una società privata e quindi vigileremo perché ci sia il massimo di attenzione sui profili occupazionali e su tutti gli aspetti strategici per l'Italia. Dopodiché vorrei ricordare a tutti quelli che stanno parlando in questo momento che Telecom è stata privatizzata, di tutte le privatizzazioni italiane credo che non sia stato uno dei più grandi successi, quindi anche se arrivassero dei capitali europei credo che questi capitali europei potrebbero aiutare Telecom a essere migliore di come è stata in questi 15 anni. Queste le parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta. Italia in controluce si ferma qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.